Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 9 maggio 2015. Infomobilità. Milano fa scuola. Altri centri italiani integrano le loro piattaforme. Da Milano al resto d'Italia l'integrazione delle informazioni digitali comincia a fare scuola. Messe al bando le eccessive gelosie, sono sempre di più le grandi città italiane che hanno deciso di seguire l'esempio del capoluogo lombardo, proprio a partire dal cruciale settore della infomobilità. La piattaforma digitale unica realizzata insieme da Expo 2015, CEFRI e le diverse aziende pubbliche e private permette ad esempio a viaggiatori di conoscere a Malpensa sui display SEA la situazione del traffico sulle tangenziali, mentre una app della ATM fornisce loro aggiornamenti puntuali sul passante ferroviario. Fin qui la notizia del 9 maggio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Il progetto della piattaforma digitale unica di Expo è stato presentato nei giorni scorsi. Alfonso Fuggetta di CEFRI e le partner di Expo al microfono di Alessandra Tedesco. Si potranno realizzare delle applicazioni per gli utenti finali, sia sul web, su dispositivi mobili, su tutto ciò che noi normalmente oggi già possiamo utilizzare, delle applicazioni che hanno un valore aggiunto perché possono mettere insieme le informazioni. Si pensi il caso dell'infomobilità che abbiamo presentato, oggi intorno a Milano abbiamo 3 operatori diversi che gestiscono le autostrade. Se possono scambiarsi dati e magari cooperare con ATM piuttosto che con gli altri attori del servizio di trasporto, è possibile dare delle informazioni molto più mirate e valide e solide ai viaggiatori, che quindi si possono spostare in maniera più efficiente. Quindi il valore aggiunto è che più dati possiamo scambiarci, maggiore è il valore dei servizi che riusciamo a dare agli utenti finali. Facciamo un esempio concreto sui pannelli a messaggio variabile che già esistono da anni in Italia, però non sono mai decollati veramente. Che tipo di informazioni il cittadino può trovare? Ma per esempio nella sperimentazione che stiamo facendo sui pannelli di Serravalle, che gestisce gran parte delle tangenziali di Milano, sarà possibile vedere le informazioni sullo stato dei parcheggi di scambio con ATM piuttosto che dello stato dei trasporti all'interno della città, quindi segnalazioni di, che ne so, blocchi di una linea della metropolitana dovuta a un incidente, piuttosto che informazioni su eventi accaduti sui tratti autostradali gestiti da altri operatori, quindi non da Serravalle. Quindi questo è un semplicissimo esempio per far vedere che attraverso lo scambio dati un punto di accesso informativo acquista valore perché dà più informazioni di quelle disponibili al singolo operatore. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.